Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la cultura, lo sviluppo delle idee, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani e immaginando una società nella quale siano superate le distinzioni e le discriminazioni di specie. È la puntata numero 655 e parleremo di mammiferi marini, ingiustamente sacrificati alla società del consumo e del narcisismo, dei grandi animali africani, di concerti insopportabili, di grandi personaggi storici, sia pure non umani. La ricetta della settimana e la colonna sonora della puntata sono a cura del nostro versatile Gabriele Palloni. Cominciamo con la triste ma istruttiva e agghiacciante storia di Freya, la tricheca che per alcune settimane è stata una specie di attrazione turistica nel fiordo di Oslo, prima di essere abbattuta, sì, abbattuta, gettata via come un oggetto fastidioso perché è divenuta un pericolo, secondo le autorità norvegesi, per i turisti che continuavano ad avvicinarsi nonostante i divieti e gli allarmi. Proprio così, poiché troppi turisti e curiosi la raggiungevano per scattare foto e farsi selfie, finendo per abituarla alla presenza umana, anziché fermare le persone con misure più stringenti, si è deciso di uccidere l'animale. Le autorità norvegesi, per la precisione il Dipartimento della Pesca, non a caso forse un ente dedicato alla morte degli animali, hanno addirittura parlato di eutanasia, come se Freya fosse stata un malato terminale. E se invece viene da pensare il malato terminale fosse quel modello di società che non riesce a vedere nell'altro, in questo caso un animale, un pacifico tricheco, nient'altro se non una minaccia e una vita a propria completa disposizione da sopprimere a piacimento e per futili motivi? Freya era probabilmente entrata nel fiordo di Oslo per errore, mentre viaggiava verso il Mar Artico. Nella nuova situazione aveva cominciato ad adattarsi, per esempio salendo su barche ormeggiate per dormire più comodamente. Presto era stata attorniata dalla curiosità di turisti e residenti che la raggiungevano in barca per osservarla e fotografarla, disturbando fra l'altro gravemente i suoi ritmi vitali, visto che i trichechi hanno bisogno di molte ore di sonno al giorno. A forza di selfie, sempre più ravvicinati, si è cominciato a temere per l'incolumità delle persone. Le autorità portuali hanno diffidato dall'avvicinarsi, ma tutto è continuato come prima, finché non si è deciso per l'eliminazione fisica di un individuo che è stato vittima innocente di comportamenti scriteriati. Le autorità norvegesi, a quanto si sa, non hanno neanche preso in considerazione ipotesi alternative, come il divieto effettivo, con presidi di polizia, dall'avvicinarsi all'animale o come il trasferimento della tricheca in mare aperto. Convinti forse di poter disporre a piacimento di vite che non contano nulla, i responsabili del Dipartimento norvegese della pesca hanno scelto di uccidere Freya. A noi questa storia sembra una metafora della deriva feroce e autodistruttiva della nostra società. Se questo è l'approccio, se non saremo capaci di ripensare la condizione umana sul pianeta Terra, allargando lo sguardo alle altre forme viventi, un rapido e inesorabile degrado delle condizioni di vita sulla Terra, degrado in corso e anche in accelerazione, non sarà in alcun modo evitabile. Lo Stato norvegese, in questo caso, ha interpretato il peggio di una certa idea di società e di futuro. Il nostro dissenso è totale e, pensando a Freya, continueremo nel nostro impegno per una convivenza pacifica fra esseri viventi e per una società morale e capace di futuro. Con Big Five, nel gergo dei naturalisti, si indicano i cinque grandi animali della savana africana: il leone, il leopardo, il rinoceronte, l'elefante africano, il bufalo africano. Sono animali meravigliosi, simbolo di una natura ancora selvaggia, poco condizionata dalla presenza umana. La loro esistenza nella savana è un indicatore di buona salute, o almeno la misura di un'apertura sincera alla vita selvatica, un'apertura fatta di rispetto, di empatia, di condivisione. Ebbene, nei giorni scorsi si sono celebrate le giornate mondiali dedicate a due di questi Big Five, il leone e l'elefante. Ma non sono state giornate di festa e di celebrazione. Tutt'altro. Sono state piuttosto l'occasione per fare un bilancio del declino di habitat e popolazioni, al punto che è diventato lecito pensare a un mondo senza più i Big Five. Un mondo che potrebbero vedere almeno i nipoti, se non i figli, degli umani oggi viventi. Le cifre sono eloquenti e le linee di tendenza inequivocabili. Le popolazioni di leoni presenti in Africa, secondo i dati diffusi dal WWF, hanno perduto il 90% del loro areale originario e il numero di individui è calato drasticamente nell'ultimo secolo, passando da 200.000 agli inizi del Novecento a meno di 30.000 rimasti oggi nel continente. Solo negli ultimi 20 anni la popolazione ha subito un declino del 43%. La minaccia principale per i leoni, nemmeno a dirlo, è il degrado degli habitat naturali a causa dell'espansione degli insediamenti e delle infrastrutture umane. Stiamo soffocando la vita selvatica. Non va meglio per l'elefante africano. Sempre secondo il WWF, sia l'elefante di savana, sia quello più piccolo e meno conosciuto di foresta, hanno subito un drammatico declino negli ultimi decenni, a causa della distruzione degli habitat, ma anche del bracconaggio. Si stima che ogni anno vengano uccisi oltre 20.000 elefanti per usarne le zanne. Il numero di elefanti africani è sceso dai 12 milioni stimati circa un secolo fa ai 415.000 individui rimasti secondo l'ultimo censimento su larga scala. Un decremento drammatico. Fra il 2002 e il 2011, nella sola area centroafricana, la popolazione di elefanti ha subito un declino del 62% e una riduzione del proprio areale del 30%. Questo drammatico declino è ulteriormente peggiorato fra il 2011 e il 2015, con una perdita di popolazione fino al 90% in alcuni territori. L'elefante di savana è ora nella lista rossa delle specie minacciate di estinzione, quello di foresta addirittura in pericolo critico, ovvero con elevato rischio di estinzione a breve termine. Il pericolo che l'elefante diventi presto un animale della memoria, presente solo nei documentari e nella iconografia sull'Africa, è dunque altissimo. Un'inversione di tendenza è naturalmente possibile ancora, e gli studi dimostrano che una lotta serrata al bracconaggio e una rigida protezione degli habitat naturali consentono agli elefanti di riprodursi con tranquillità. Ma applicare tali regole su vasta scala implica una revisione profonda dell'idea di sviluppo e delle attuali politiche economiche. Come si vede, si torna sempre lì, a un modello di sviluppo che non ha più futuro, ma che conserva un potente apparato ideologico e di potere e non è disposto a lasciare spazio a idee di società alternative. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, fantasioso autore di un libro da non perdere, Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, si cimenta questa settimana proprio con una ricetta che ha come ispirazione uno dei Big Five africani, l'elefante. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. A quanto pare gli elefanti, o meglio le loro orecchie, sono di grande ispirazione in cucina. Già in passato vi ho parlato della ricetta delle grosse cotolette che portano questo nome. Oggi vi racconto quella di un pane dolce e croccante che ne è omonimo. Gli ingredienti per 4 persone per le Elephant Ears sono 300 g di farina tipo 0, 5 g di lievito di birra, 100 ml di latte di soia, 100 ml di acqua, 100 g di zucchero di canna, 20 ml di olio extravergine di oliva, un pizzico di curcuma in polvere, vaniglia, un pizzico di sale e olio di semi di arachide per friggere. Per guarnire dello zucchero di canna e della cannella in polvere. In una bowl sciogliete il lievito di birra in 100 ml di latte di soia tiepido e un cucchiaino dello zucchero di canna e lasciate attivare per 5 minuti. Impastate il lievito con 100 g di farina e lasciate riposare per 30 minuti coprendo con un panno. Trascorso il tempo necessario, aggiungete all'impasto l'acqua, la curcuma e qualche seme di vaniglia, 50 g di zucchero di canna e iniziate a incorporare il resto della farina un cucchiaio alla volta. Quando tutto sarà ben amalgamato, aggiungete il sale e poi l'olio extravergine. Impastate con movimenti circolari dal basso verso l'alto per una decina di minuti. Mettete l'impasto in un contenitore spennellato di olio con il coperchio e lasciate riposare per un'ora. Recuperate l'impasto e su di un piano infarinato, infarinandovi anche le mani, ripiegate la pasta su se stessa varie volte. Poi mettetela nuovamente nel contenitore spennellato di olio, chiudete e lasciate lievitare per 3 ore in forno spento con la sola luce accesa. Riprendete l'impasto e sempre su un piano infarinato realizzate delle palline che stenderete col mattarello ottenendo delle sfoglie sottili 2 o 3 mm. Lasciate riposare una ventina di minuti e quindi friggete in olio ben caldo fino a quando non saranno gonfie e dorate, circa 1 o 2 minuti per lato. Scolate su carta per frittura e infine in una scodella mescolate lo zucchero di canna con della cannella in polvere. Siate generosi. Passate le frittelle nello zucchero e servite ben calde. oppure preparatele in anticipo e poco prima di servirle passatele 5 minuti in forno caldo. Abbiamo parlato più volte nelle settimane scorse del Jova Beach Party, la tournée con concerti in riva al mare per migliaia di persone organizzata dal cantante Jovanotti. Una tournée vivacemente contestata da innumerevoli organizzazioni animaliste e ambientaliste per il danno che procura agli ambienti naturali e alla vita selvatica lungo le spiagge e negli areali vicini. L'impatto di simili eventi è evidente: imponenti spostamenti di materiali, continuo via vai di mezzi pesanti fino in riva al mare, abbattimento in alcuni casi di piante per fare largo al palco e agli spazi dedicati agli spettatori, sbancamenti con minaccia diretta ad aree di sosta e nidificazione di uccelli, e poi l'enorme frastuono, insopportabile per gli animali selvatici, causato dalla musica. Secondo Jovanotti, invece, gli eventi del Jova Beach Party promuovono una cultura ecologista. Il contrasto di vedute non potrebbe essere più netto. Il cantante, in questa diatriba, ha via via alzato i toni, perdendo di pari passo il senso della misura e la lucidità. Tant'è che, di fronte alle parole del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, che ha osservato, in un articolo molto argomentato uscito sul quotidiano La Stampa, che concerti con 50.000 persone non sono sostenibili da alcun sistema naturale, ha replicato con un'invettiva contro gli ambientalisti, definiti niente meno che eco-nazisti. È un'espressione questa che dice più cose sul conto di chi la utilizza di quanto non descrive i destinatari, e possiamo solo sperare che sia frutto della concitazione del momento, di una reazione emotiva e scomposta di fronte a critiche e appunti sempre più stringenti e motivati. Passato il Jova Beach Party, compiuta la sua personalissima opera estiva di promozione pseudo-ecologista, magari Jovanotti ritroverà la calma e prenderà in considerazione l'ipotesi che torniamo a formulare. Per la prossima tournée organizzi concerti nei pressi di discariche abusive, dei cantieri di grandi opere inutili, fra i ruderi di fabbriche e siti industriali abbandonati, sulle piste di aeroporti percorsi da migliaia di voli superflui, nei terreni prossimi a essere valorizzati, come oggi viene definito il consumo di suolo, nella neolingua dello sviluppo fine a se stesso. A quel punto sì che i concerti di Jovanotti li potremmo definire ecologisti. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. In questa torrida estate abbiamo tutti compreso quanto sia incombente il surriscaldamento che caratterizza questa fase storica, anzi geologica, che da qualche tempo chiamiamo antropocene. Temperature elevatissime, centri urbani al limite della invivibilità, giornate trascorse chiuse in casa con il condizionatore, per chi ce l'ha, come unica fonte di benessere. Ci sono poi altri segnali più sfuggenti che dovremo cogliere, in modo da comprendere davvero la portata dei cambiamenti in atto. Sono segnali che arrivano dal mare. Sì, perché nel nostro mar Mediterraneo è in corso una strage di organismi animali e vegetali. L'aumento di ondate di calore marine, sempre più frequenti e intense, ha prodotto una mortalità di massa in tutto il bacino fra il 2015 e il 2019, 5 anni di caldo eccezionale. È una strage che riguarda popolazioni di 50 diverse specie come coralli, spugne, macroalghe e pesci. Le ondate di calore killer hanno colpito migliaia di chilometri di coste, dal mare di Alboran in Spagna fino alle coste orientali, fra la superficie e i 45 metri di profondità. Questa valutazione è contenuta in uno studio svolto da oltre 30 gruppi di ricerca provenienti da 11 paesi, fra questi l'Istituto per le Risorse Biologiche e Biotecnologiche Marine del nostro CNR. Il rapporto è stato pubblicato sulla rivista Global Change Biology. Purtroppo, ha spiegato Ernesto Azzurro, ricercatore del CNR, i risultati mostrano per la prima volta un'accelerazione degli impatti ecologici associati ai cambiamenti climatici. È una minaccia senza precedenti per la salute e il funzionamento dei suoi ecosistemi. Il Mar Mediterraneo è considerato un modello rilevante per valutare gli effetti ecologici dei cambiamenti climatici sulla biodiversità marina e per testare potenziali strategie di adattamento e mitigazione. Perciò questa ricerca è particolarmente rilevante. Sebbene rappresenti solo lo 0,32% del volume totale degli oceani, la storia geomorfologica del Mediterraneo è unica e ha portato a un livello di biodiversità notevolmente elevato, con il 7-10% di tutte le specie marine conosciute e un'ampia percentuale di specie endemiche. La strage di massa in corso è quindi una pericolosa anticipazione di ciò che potrebbe avvenire negli altri mari. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Abbiamo parlato molto lungo tutta la puntata di cattive notizie e delle condizioni allarmanti di molti habitat naturali, cioè vitali, nel pianeta. Ma non vogliamo certo con questo invitare al pessimismo e men che mai alla passività e alla disistenza. Il nostro intento è semmai opposto: favorire la conoscenza, far maturare persuasioni profonde e poi agire per il cambiamento. Perciò vogliamo chiudere questa puntata con un estratto da un libro che ci sembra di grande attualità e a suo modo profetico. Il libro si intitola Cronache ribelli e ha come sottotitolo Almanacco di utopie reali, identità indelebili e ritrovata memoria. 250 storie di lotta, coraggio e amore. Questo almanacco, pubblicato da CR Edizioni, contiene storie appunto che ci portano in tempi e spazi diversi, fra episodi e personaggi famosi e altri meno conosciuti. Si va dalla rivolta degli studenti di Atene contro la dittatura dei militari greci a quella dei minatori delle Asturie negli anni 30. Dalla giornata contro la povertà al ricordo di figure come Emma Goldman, Marco Bloch o Fra Dolcino e moltissime altre. Ebbene, fra le storie e le figure esemplari, in questo almanacco compaiono anche degli animali. All'elefantezza Topsy è addirittura dedicata la prima pagina del libro, la prima scheda del 1 gennaio. Un bel esempio di sguardo antispecista sul mondo e sulle lotte condotte e da condurre. Leggiamo qualcosa da questa scheda. Topsy era nata libera in India molti anni prima della sua morte e non si era mai rassegnata al destino infausto che l'aveva vista catturata, venduta e portata negli Stati Uniti, dove era diventata, suo malgrado, una delle attrazioni principali del circo Fore Paug. L'avevano fatta esibire un po' ovunque e alla fine dei suoi 28 anni di carriera era finita nel Luna Park di Coney Island. Qui i suoi compiti erano diventati portare in groppa le persone e muovere i materiali da costruzione. Topsy però non ci stava a fare questa vita infame e così, come ogni prigioniero piegato nel corpo ma non nello spirito, continuava a ribellarsi ai suoi carcerieri. Per questo uccise 3 dei suoi guardiani. L'ultimo le aveva spento una sigaretta in bocca. Le autorità, desiderose di mantenere anche nel Luna Park l'ordine costituito, decisero che l'elefantessa andava soppressa. L'esecuzione, immortalata in un macabro filmato dal titolo Electrocuting an Elephant, fu portata a termine il 4 gennaio 1903 a Luna Park di Coney Island, di fronte a circa 1500 persone. Ci vollero pochi secondi perché la folgorazione spezzasse la vita dell'elefantessa. La morte di Topsy ne consacrò l'esistenza. Aveva lottato per la propria libertà e molti altri della sua specie negli anni seguenti l'avrebbero emulata, dimostrando che la prigionia è un'ingiustizia a cui ogni specie cerca di ribellarsi. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Reggioli, Valentina Baronti, Anna Granata, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.